24 mattino. Intanto c'è la casa tutta sotto sopra, proprio tutto per terra, i cassetti, i vetri, perché ha rubato i dischi d'oro. Mamma tutto mia. Quello che, tutto quello che era, diciamo, legato alla mia carriera. Ah, certo. I premi, eccetera, così, le ha portate via tutto, perché sai, tutte le cose che luccicavano le ha portate via. Era la voce di Fausto Leali, la voce nera, perché molto soul, molto amata dagli italiani, ma oggi era la voce nera perché era incazzato. Ieri alla Zanzara sono entrati a casa sua, l'hanno svaligiato, gli hanno rubato i dischi d'oro che mai più potrà ricomprare. È furibondo, ha detto bisogna sparare, ormai la legge protegge solo chi ti deruba. Ed è il taglio centrale di Libero, pagina 8, Gianluca Veneziani, ed è da ieri il suo dialogo, la sua confessione, il suo sfogo alla Zanzara su Radio 24. Il titolo di Libero: soldi al sud, rapinato il nord. Vedremo poi di che si tratta, ovviamente c'è da discutere. Presto in vigore il decreto Mezzogiorno. Il Fatto Quotidiano apre il dibattito a partire dalla famosa dichiarazione di Scalfari. Va a interrogare scusate, gli intellettuali della sinistra italiana e gli pone quella domandina. L'endorsement di Scalfari pro Caimano, scrive il quotidiano di Travaglio, e anti 5 Stelle, inaugura un nuovo bipolarismo. Abbiamo chiesto a giornalisti, intellettuali, artisti e politici chi sceglierebbe fra i due leader. Tu chi voti, titolone, Berlusconi o Di Maio? Il voto futile, l'editoriale di Travaglio, un bel gioco di parole. La Stampa: Turchia-Italia, nuova rotta dei migranti. Come al solito La Stampa si concentra sulle questioni internazionali con inchieste, approfondimenti e anche un editoriale su questo di Giampiero Massolo, su Tripoli, una gara pericolosa. La foto grande con uno stuolo di ragazzi giapponesi e in realtà una cerimonia per i nuovi impiegati, un rito di iniziazione in una grande azienda giapponese, la rivolta dei giovani giapponesi, più tempo libero. Pensate, pure loro vogliono più tempo libero. Il Sole 24 Ore, veramente come uno di questi squilli di tromba. L'export vola con USA, Cina e Russia, e record dell'indice della pubblica amministrazione sugli acquisti della manifattura nell'Eurozona. È il più alto, pensate, dal 2000. Qualcosa si sta muovendo? Il taglio, ipotesi, spin-off della rete, Telecom, più 4.5 in borsa, numeri che danno l'idea che qualcosa si muove. Il Foglio. Il soppalco su Calazze, il sindaco a Tbilisi, e poi il titolone centrale, Giuliano Ferrara: viva il compromesso, vaccino contro i meschini dell'anti-inciucio. Il corsivo di Maurizio Milani, anche quello su Scalfari, Eugenio e Silvio: il fondatore chiama a Strasburgo per essere certo che il cavaliere si possa candidare, e Milani lo intercetta. È un pezzo di satira questo, ma il pezzo vero che da tre giorni attendevamo è quello di Eugenio Scalfari su Repubblica. L'editoriale: l'inganno sul mio voto a Berlusconi, spiega come e perché ha detto quella frase che sta facendo discutere da tre giorni la politica italiana. Ma l'apertura di Repubblica è sui super ticket. Via i super ticket, governo salvo, crisi sfiorata, Pisapia pronto a far saltare l'alleanza con il PD, a rischio il biotestamento. Salvini, sempre questo è il catenaccio di Repubblica, leader di Forza Italia, patto antinciucio, un'altra cosa su cui si discute, dal notaio Camusso a Padoan: non sei di sinistra. La foto centrale: un giovane skin con un tatuaggio sulla testa, sul cranio, con un anello, un orecchino da mezzo etto, un viaggio nel cuore nero dell'Europa. La Verità: il grande affare delle case per anziani è il soppalco, purtroppo un'inchiesta bella di Carlo Piano su come si sfruttano gli anziani e le loro rette, sanguisughe. E poi ecco la donna che accusa di molestie Tavecchio: re, senza più trono del calcio, è un pezzo di Giacomo Amadori. E poi il fondo di spalla di Mario Giordano, ormai basta l'invito a cena per beccarsi una denuncia. Ma anche il taglio è interessante, è una notizia che troveremo altrove. Casini non interrogherà Ghizzoni, la Boschi brinda. La commissione sul crack delle banche non convoca il banchiere che potrebbe confermare la versione di Bortoli sui maneggi intorno a Etruria. Ale, era fatta per questo la commissione, non l'hanno voluto sentire. Avvenire ci informa sul ballo del bonus bebè, che alcuni giornali danno per certo come reintegrato. Invece Avvenire, che sta seguendo con molta attenzione, dice che per API è pronta l'intesa, ma il finanziamento è in bilico. Stop all'aumento dell'età pensionabile, questa è una notizia che da due giorni sta ufficializzandosi, diciamo, per 14.000 persone. Il Tempo. Ordini del Parlamento, arrendetevi ai Rom. È esclusivo la ricetta della Commissione Periferie per i Nomadi. Lavoro garantito, sgomberi come sfratti e festività in calendario. Boh. Però è più interessante la foto del taglio centrale. Boldrini cancella questo, ovviamente un titolo sarcastico, che prende spunto dalla foto che anima il quotidiano di Gianmarco Chiocci. Restaurato l'affresco di Sironi alla Sapienza, tornano alla luce i simboli fascisti che erano stati censurati, cioè velati. Rigopiano tutte le colpe, l'esclusiva del Corriere da Sera sull'inchiesta che ha riguardato il, come sapete, il salvataggio difficoltoso e i 29 morti dopo la valanga e 23 avvisi di garanzia, allarmi ignorati, ritardi, abusi, PM, la strage in resort poteva essere evitata. Le ragioni di un'intesa necessaria è il pezzo sul Nord dell'autonomia di Dario Di Vico, dove io tornerò ancora sulla vicenda di quel comune che si è staccato dal Veneto per entrare in Friuli, perché non è finita la polemica su Sappada. Il Manifesto, tutto uno squillo di tromba, sciopero Amazon, siamo rotti e sfruttati, pressione dell'impresa sui precari perché lavorino lo stesso durante il Black Friday. Susanna Camusso al Manifesto, intervista esclusiva, dopo due anni di trattativa il governo ha fatto retromarcia su donne e giovani. Gli altri paesi tassano i patrimoni, in Italia si tagliano le pensioni, il titolo è solo l'inizio. Il Giornale, Stato vampiro, questo è un titolo gianniniano, e tasse, la verità nascosta, adesso è ufficiale, l'Italia è il paese al mondo che fa più cassa con i soldi dei cittadini, la pressione fiscale sfiora il 43%, ricorderete che questa notizia voi la conoscete già perché il Sole 24 Ore l'ha anticipata qualche giorno fa, però ripetita Juvent. Il Fondo di Alessandro Sallusti, Scalfari stana i pappagalli, una lezione agli anti-cav, questo è il fondo, chissà se Sallusti ha letto lo Scalfari di oggi, ma noi siamo avanti, voi siete già svegli e noi siamo avanti. E il Corriere dello Sport, Luis Alberto doppia firma e Europa League, la Lazio perde Nani, questo ci si prepara ovviamente a questa sfida dopo il turno di ieri, trionfo dell'Atalanta, Lampi di Milan, le italiane marciano quest'anno, marciano anche il calcio si riprende, ma il titolone del quotidiano romano è su Schick, era il grande enigma, finalmente Schick, l'attaccante ormai pronto per la Roma, Di Francesco può chiamarlo già contro il Genova. Sul Corriere c'è anche la sentenza che abbiamo letto su Robinho. Robinho shock, 9 anni di carcere per stupro. Robinho in Italia. La Gazzetta dello Sport, Atalanta da sogno, travolto l'Everton di Rooney, 5-1, un'altra impresa europea dei nerazzurri a Liverpool, Goteada e primo posto nel girone e Milan vai col liscio perché come sapete c'è stato il ribaltamento che vi ho raccontato. Questi sono i quotidiani sportivi, l'ultima segnalazione di titolo che faccio è del Messaggero con un titolone bello, largo, sparato a quasi a tutta pagina, polizia, militari, ecco gli aumenti. Ma ragazzi, ma ci devono essere le elezioni? milioni in questo paese per dare un po' di soldi, per scucire i cordoni, polizia e militari, verso il rinnovo del contratto, tra incrementi arretrati a gennaio fino a 650 euro in busta paga. Studi di settore dal barbiere al fioraio, così sfuggono al fisco, questo è interessante. Pensione a 67 anni, salvi 14.600. Un altro turno elettorale e portiamo a casa gli 800 euro. Ale, ci sentiamo fra poco, dopo il meteo. Mattino. Lei, se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. Era questo Scalfari, signori. Che bella questa voce di Scalfari, che dentro ha il vento della storia. Siamo qui in diretta a raccontarvi che c'è una rivolta nei vostri messaggi contro Carla Bruni. Non pensavamo, ma siccome siamo attenti al consenso, non pensavamo che vi arrabbiasse così tanto per questa scelta della mattina a gran voce. Referendum popolare e voto democratico, reintroduciamo i Rolling Stones. Ah, grande, grazie, grazie. Sentite che carica, I vecchi dinosauri rotolanti. E io sulle note di questo I miss you, che poi è la mancanza di tutto in questo paese. Ci manca la verità su Rigopiano, così l'hotel diventò una trappola, il Corriere della Sera, 29 morti. Ora gli indagati diventano 23 nell'inchiesta. L'ex prefetto, i sindaci e i funzionari regionali, ce lo racconta il Corriere della Sera con Virgilia Piccolillo, uno scoop del Corriere della Sera. Potevano salvarsi le 29 vittime dell'hotel Rigopiano se il prefetto Francesco Provolo, ben consapevole dell'emergenza neve, avesse attivato prima il centro coordinamento dei soccorsi, organizzando l'arrivo dei mezzi spazzaneve. Se il presidente della provincia, scrive Virgilia Piccolillo, Antonio Di Marco, i tecnici e i funzionari avessero svolto il loro dovere, ma ancora prima, se fosse esistita la carta valanghe attesa dal 92, che non è mai arrivata. Manca! Allora, vi dicevo che oggi si discute del patrimonio di Genovesino, Genovese Junior, Luigi Genovese, 21 anni, il figlio eletto quasi per via ereditaria, che è diventato il quarto impresentabile arrestato. Allora, noi siamo garantisti sempre, però i numeri che saltano fuori dal pezzo pacato, garbato, documentato di Felice Cavallaro fanno riflettere. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 6. Il dramma di un'assemblea regionale, quella siciliana, che esordisce fra incriminazioni nella città del ferry boat, diventa commedia. E fra Antonio Genovese, il ras dei 20.000 voti trasferiti dal PD a Forza Italia, rischia di passare alla storia come l'uomo, anzi come l'evasore, che marchia come impresentabile persino il figlio Luigi e fa morire il padre in banca. Come direte voi, fa morire il padre in banca? Sì, perché sentite, tragicomico dettaglio di un sequestro da 30 milioni su un patrimonio di 100 in una famiglia che avrebbe dibato il fisco da tre generazioni, come scrivono i giudici, arrivando al rampollo appena eletto sullo stretto. Luigi, il più votato, scrive Cavallaro, Corriere della Sera, a 21 anni, già sospettato di riciclaggio, grandi occhiali su viso scarno e corpo mingherlino, è accusato di essersi fittiziamente intestato i beni del padre perché risultasse nulla tenente agli occhi del fisco. E vai. Dopo la condanna a 11 anni per lo scandalo dei corsi d'oro nelle formazioni regionali, aveva questo bisogno per evitare dei sequestri. Ma questo è solo l'ultimo. Il padrone dei traghetti Caronte, accompagnato dalla moglie Chiara a Lugano, interpretò il ruolo del presunto orfano davanti a un funzionario del Credit Suisse con sede nelle isole Bermuda, un funzionario incuriosito da un'operazione da 16 milioni di euro e lui pronto a sottoscrivere, testuale, diceva che parte di questo testamento, di questi soldi, arrivano dalla morte di mio padre Luigi. E voi direte, vabbè, è una porzione di eredità. No, perché ci racconta Felice Cavallaro che il padre di Genovese, ex senatore democristiano, nato nel 25 e in carica per 6 legislature, stava benissimo nel luglio di quell'anno e morto poi nel 2015. E questa traccia porta la Guardia di Finanza e il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita a capire che anche il nonno di Luigi aveva un suo tesoretto all'estero. Tre generazioni coerenti, un nome che un marchio, Ale. E allora vi dicevamo le cose che incuriosiscono. Il buio a pagina 23, ma sarà una grande metafora. Abbiamo tolto il buio alla notte. Il pezzo, per chi se vuole leggere, è di Giovanni Caprara. Vi leggo la conclusione. La causa di questo ennesimo degrado, cioè la luce che squarcia le tenebre, è legata alle scelte dell'individuo, agli stili di vita, non certo alla tecnologia, che può invece aiutare. Di sicuro tanta luce artificiale una cosa ce la toglie, l'emozione di guardare la luce vera delle stelle. Sì, però ragazzi, ma se uno deve lavorare la mattina, accende la luce, e la poesia chi se ne frega, non è che muore il mondo perché qualcuno accende una lampadina, ma qua siamo al Pasolini di quarta classe. È Sappada, 1, 2, 3, 10, 100 Sappada, sul Libero ci raccontano il problema degli altri comuni, come è successo al comune Veneto che si è distaccato dal Veneto per andare in Friuli, gli altri comuni che se ne vogliono andare. Tutti vogliono scappare in Friuli, ci racconta Alessandro Gonzato, e Cortina ha già votato nel 2007 per andarsene in Alto Adige. E non è un caso che il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, nei prossimi giorni incontrerà il presidente della provincia autonoma per chiedergli di accelerare i tempi. Se ne vogliono andare tutti, tutti ci mancano, tutti se ne vanno, e potrebbe essere una specie di spezzatino in cui l'Italia si muove e si sposta a seconda del consenso e delle convenienze, signori. Allora, piccoli cespugli crescono. Sul Corriere della Sera, la ressa per fare le liste, ci racconta Tommaso Labate, le liste di coloro che devono apparentarsi al PD, ma il PD, perché si apparenti, non deve dargli dei collegi. Allora Labate ricorda di come era furibondo il leader dei Verdi Angelo Bonelli: quando ho letto che Renzi aveva scritto che il PD è il più grande partito ambientalista d'Italia, pensavo di trovarmi di fronte a un giornale satirico. Tre condoni e cemento, il governo di Renzi è stato una brutta imitazione di quello che voleva fare Berlusconi, compresa la sua sparata sul ponte sullo stretto. Così diceva a inizio settembre, ma ormai secoli fa, Angelo Bonelli. Adesso invece si vuole alleare con Renzi, vede Piero Fassino e scopre, scrive l'Abate, che sì, l'incontro è stato positivo, abbiamo discusso della possibile configurazione di un'alleanza di centrosinistra. Ale! E invece c'è il cattivo in questa storia. Mentre Emma Bonino presenta il nuovo simbolo Europa, scritto con una scritta arcobaleno con cui vorrebbe fare la sua lista, ce lo racconta Alessandra Rachi sul Corriere della Sera insieme a Benedetto della Vedova e Riccardo Maggi, D'Alema spiega: negoziato surreale, intesa dannosa, il voto utile alla fine schiaccerà il PD. Un'intervista cattivissima ad Aldo Cazzullo, il Corriere, pagina 9. Ma così vi presentate divisi contro il centrodestra unito e contro Grillo. Questa è una sciocchezza fatta scrivere ad arte ai giornali, dice D'Alema. Non è vero che il centrosinistra perde perché è diviso. Il PD si è separato da una parte del suo popolo e non c'è nessuna coalizione che possa porvi rimedio. Il centrosinistra unito ha perso ovunque. Io stesso sono stato a Genova, e dove i compagni mi rispondevano: è un bravo compagno il vostro candidato, ma non posso votarlo perché così voteremmo Renzi. E poi sulla legge: è una legge mostruosa, legge elettorale, pasticciata, confusa. Il PD l'ha voluta pensando che il voto utile ci avrebbe schiacciato. Poi in Sicilia hanno visto loro che il voto utile schiaccia loro. Tutto da leggere questo D'Alema. Ogni riga una bella sveglia. Allora, recensione per chi ama i giornali e scrittura e giornalismo del libro di Paolo Mieli da parte di Vittorio Feltri, un omaggio insospettabile, addirittura con una rivendicazione di genitorialità. Mieli, secondo Feltri, ha rivoluzionato il giornalismo e il Libero sarebbe il suo figlio naturale, non riconosciuto. Ale. Allora, Scalfari, dopo i giorni di polemica, è costretto a scrivere, devo dire, un po' con escusatio, l'inganno sul mio voto a Berlusconi. Sentite il tono accorato dell'appello: cari lettori, non cadete nell'inganno di chi sfrutta una domanda paradossale. Chi voterebbe fra Di Maio e Berlusconi? Santo Floris, i giornalisti che fanno le domande per sostenere che avrei cambiato posizione, scrive Eugenio su Berlusconi. Siamo sulla prima pagina di Repubblica. Non l'ho mai votato e ovviamente non lo voterò mai. Martedì scorso ho partecipato alla trasmissione di Floris, dove tornerò martedì prossimo. Rispondendo a una domanda sul tema dell'ingovernabilità, ho detto che in caso di estrema necessità per superare una situazione paralizzante per il paese, il PD, per il quale ho sempre votato dai tempi di Berlinguer, dell'Ulivo Prodiano, infine da Walter Veltroni, potrebbe essere costretto, come è già successo in passato, a un'intesa con Forza Italia. Ma ragazzi, ma non aveva detto questo Scalfari? Sentitelo. Lei, se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. Sceglierei Berlusconi. È stato, come dire, ha toccato il dente che duole. Infatti il Fatto, scusate l'allitterazione, il Fatto titola: tu chi voti, Berlusconi o Di Maio? Va a chiederlo, è diventato quasi un gioco di società e ne escono fuori di tutti i colori, perché lo ha chiesto a Cacciari, l'ho chiesto a Lucia Annunziata, l'ho chiesto a Panza, l'ho chiesto a Vattimo, l'ho chiesto a Tommaso Montanari, a Enrico Mentana e molti, devo dire, a Marco Tarquinio, Giovanni Valentini, molti non rispondono. Staino ha fatto una vignetta per Tiscali, Ilaria che dice a Bobbo: Scalfari preferisce Berlusconi a Di Maio, e lui risponde: anche Di Maio preferisce Berlusconi a Scalfari. Ci avete capito qualcosa? No. E Enrico Mentana cosa dice? Chi preferisco fra Berlusconi e Di Maio? E lo chiede a me, che non voto da decenni, sorpreso da Scalfari? Alla mia età non mi sorprendo più di nulla. Ma sì, è un'ottima epigrafe. Stanno morendo le api di Susanna Tamaro. Lo trovate sul Corriere a pagina 25 e noi insieme con questa bella intervista che vi segnalo a Bollani sul Corriere, e ci fermiamo ancora per andare sulle strade. Mattino. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Eccoli gli immortali accordi dei Pink Floyd. E qualcuno mi ha detto: ma l'accordo di basso, ho capito, però il riff è di chitarra elettrica. Erano Waters e Gilmour, così nessuno si dispiace. Insieme alle vittime di Carla Bruni. Ci sono messaggi vagamente minatori. Non pensavo che fosse così amata la ragazza. Sentite cosa mi scrive. Non si è firmato. No, ti prego, Luca. La Bruni sembra un lamento di stitichezza dolorosa. Ma come vi vengono in mente queste immagini di prima mattina? Oddio mio, che impressione. Allora, dovrebbe stare nella parte economica che Salvini, ce n'è ogni giorno una più bella, vuole portare Berlusconi da notaio. Ma dici, ma che c'entra? Sì, lo vuole portare da notaio per fargli firmare un'alleanza e un patto anti-inciucio. Vieni qua, il convenuto Matteo Salvini e il convenuto Silvio Berlusconi, pensate alla faccia del notaio, si impegnano a non tradire il patto elettorale prima e dopo il voto. Ale, ve lo segnalo anche questo, non ci manca niente, Libero, pagina 7. A proposito di soldi, una bella intervista di Jim Carrey sul Corriere della Sera racconta i primi veri soldi li ha fatti con Musk, con un rammarico che il padre morì prima di vedere la cifra a 8 zeri che lui guadagnò con quel film. E allora pensate, Jim, in un empito, il giorno del funerale, prima di chiudere la bara, ha preso un assegno da $10,000 e lo ha messo con il cadavere del padre. Stupendo. Non so se è una dichiarazione di odio o di amore per il denaro, ma è il denaro che fa girare il mondo, eh? È il denaro che, come ci racconta Gordon, caro Gordon, hai ragione. E allora noi andiamo a raccontarvi le cose economiche di oggi a partire dalla congruità. Il Messaggero, pagina 3, e Il Sole 24 Ore ci raccontano che arrivano i conti degli studi di settore. Sapete che su questa radio se ne parla con attenzione, anche con dovizia di dettagli, da ieri. E però c'è i dati, no? Poi dopo li commenteremo, diremo è vero o non è vero, ma barbieri e parrucchieri sono i meno congrui rispetto, cioè, a quanto il fisco immagina che dovrebbero dichiarare, sono fuori, si discostano di circa il 60%. Il parrucchiere non riesce a essere congruo. Allora, il titolo del Sole a pagina 5, studi di settore, questa invece è la media totale dei discostanti, chiamiamoli così. Il 28% non si adegua. Il pezzo di Giovanni Parente, l'articolo di Giovanna Parente è a pagina circa un milione di soggetti non è in linea con i ricavi attesi dalle entrate. Stiamo parlando del totale, non per categorie. Chi pensa che gli studi di settore non possono rappresentare una messa a fuoco totale e definitiva dell'evasione fiscale in Italia probabilmente rimarrà deluso. Da un lato, perché l'evasione, scrive il giornalista del Sole, è un fenomeno multiforme e difficilmente liquidabile con i dati relativi a 3,3 milioni di partite IVA. E dall'altro, perché i dati dei medi finiscono per appiattire e non consentono di considerare una pluralità di differenze. Quello che il Sole cerca di spiegare oggi è che ovviamente c'è la differenza fra un parrucchiere che lavora a Caltanissetta in un vicolo e un parrucchiere che ha un bellissimo salone, che ne so, nelle vie di una strada del centro di Roma e di Milano. Eppure la media del pollo ci dice che c'è questa grossa anomalia. E ecco qui, vado a vedere anche il focus del Messaggero, che punta l'indice sulle categorie e ovviamente con un tono un po' accusatorio. Dal barbiere al fioraio, ecco chi sfugge al fisco. So che chiameranno fiorai furibondi fra poco. Chiamate allora, spiegateci perché il discostamento dei barbieri è esattamente del 55%, quello degli studi legali è del 41%, quello delle lavanderie, pensate, le lavanderie, è del 52%, quello dei taxi è del 45%, quello dei fiorai è del 47%, cioè un fioraio su due non è congruo con quello che, secondo il fisco, in quel luogo, secondo lo studio di settore che fra un po' rottameremo, dovrebbe dichiarare. Ale, tolgono i soldi a nord per darli al sud sul Libero, transazioni digitali aumentano, anche questo è importante, e poi andiamo alla mitragliata. Lo sapete che Malia Obama, figlia del grande Obama e di Michelle, si è fidanzato con Roy Farkson, un 19enne del Rugby School, una scuola fica per cui si pagano 40.000 euro l'anno, ed è inglese? Il Corriere ci destina un pezzo di Ippolito, tutta pagina 13, e io aggiungerei un sonoro e chi se ne frega! Allora, Lucia Senatore, voi dite chi è? È una delle tante sfollate del terremoto dell'Irpinia. Ha perso la sua casa il 23 novembre del 1980. Non ti distrarre lì, Rachele. La nostra Rachele chiacchiera. Ha perso la casa il 23 novembre del 1980. Potrebbe riaverla fra una settimana. Ma sono tempi fantastici, signori. Ma neanche 40 anni e ti arriva la casetta. Tempestivolo lo Stato. Vai. Allora, una donna di 65 anni, aveva un tumore al seno, ha provato a guarire con impacchi d'argilla e digiuno, ha perso 30 kg, i medici l'hanno ripresa per i capelli, l'hanno operata, l'hanno salvata e lei ha provato a fuggire all'ospedale per non fare la chemio. Ragazzi, e se non volete essere aiutati, pazienza! Ci vediamo fra poco per i cani e per i gatti! La la!